Al primo caso, stranamente, non c'è dietro niente. Spedita da Lugano, mi arriva direttamente a casa la pubblicità di una pizzeria in zona Fiera a Milano. È in forma di lettera. Comincia con il vantare l'ambiente, accogliente, caldo, elegante, servizio e professionalità, spiegandomi altresì che è facile da raggiungere. Ora, dal momento che questa caratteristica non può adattarsi ugualmente al potenziale cliente che so che abbia, quello che abita a Orgosolo, e a quello che abita nella via adiacente, ne deduco che chi mi scrive sa qualcosa di me. Ecco, sa per esempio dove abito. Perché? Perché l'azienda svizzera a cui la pizzeria si è rivolta per promuoversi ha selezionato i destinatari stradario alla mano. Se sa dove abito, tuttavia di me ignora molte altre cose. Ecco, per esempio, che leggo con attenzione le lettere che ricevo. Già il trovare le parole servizio e professionalità come fossero aggettivazioni di ambiente, dopo accogliente, caldo, elegante, ecco, già questo mi preoccupa. Sapere altresì che il medesimo ambiente è particolarmente indicato per una piacevole e intima serata non mi rasserena affatto, perché soltanto con qualche bel salto metaforico una serata che, come sappiamo, non è una semplice sera, una serata ha una durata temporale e morale di gran lunga superiore, questa serata, grazie soltanto a un salto metaforico, può diventare intima. E mi inquieta assai che all'apice dell'argomentazione persuasoria mi si prometta di farmi riscoprire il piacere del mangiare bene con veri sapori. Un sapore vero ce l'hanno anche gli escrementi di ornitorinco e le fricassee di topi randagi, ma questa loro verità non significa che debbano risultare graditi al mio palato. Se poi, ecco, faccio un ultimo esempio prima di arrivare al punto più dolente, ecco, se poi mi si garantisce che i vini di questa pizzeria sono selezionati con una cernita particolare, potrei con tanta buona volontà rimanerne incuriosito, ma mai e poi mai avrò la benché minima idea di quali vini mi si voglia far bere. La scelta sarà anche particolare, ma senza dichiararne i criteri, il risultato rimane un mistero. Nella lettera compare due volte l'avverbio particolarmente e due volte l'aggettivo particolare. In altri tempi si sarebbe potuto sospettare commerci che con le pizze avrebbero avuto poco a che fare. Qui è evidente invece che all'aggettivo vengono attribuite straordinarie virtù retoriche. Fino al punto di propormi, ecco, la loro mercanzia fondamentale, la pizza, decantandola sì come ottima e particolare, sì, da un lato, certo, e ecco, orizzonti luminosi della gastronomia, decantandomela come consegni zodiacali. Ora, ignoro il perché la presenza di un segno zodiacale possa migliorare la qualità di una pizza, ma so per certo a questo punto che in quel locale, ecco, fino a che sarò in grado di intendere e di volere, non metterò mai piede. A questo punto, però, credo di sapere anche qualcos'altro. Una lettera scritta maluccio, zeppa di incongruità logiche, di bassezze retoriche, alla fin fine presumibilmente assolve la sua funzione. La pizza dotata di segni zodiacali seleziona automaticamente un pubblico che, se assegna a questi segni zodiacali un valore sufficiente per farlo correre nella pizzeria in questione, non guarda certo a quisquiglie come gli aspetti stilistici della lettera con cui lo si sollecita. Voglio dire che vige il principio dei livelli di criticità. Chi non trova nulla da ridire per la trave nell'occhio, di solito, figuriamoci, non trova nulla da ridire neppure per il moscerino. A questo questo caso, dicevo, stranamente non sembra esserci dietro alcunché. Anche il fatto che la lettera mi sia stata spedita da Lugano, da quella Svizzera che in molti casi sappiamo essere più misteriosa dell'Oriente misterioso, in fin dei conti nulla mi dice in fatto di chissà quale intelligenza nascosta, e tutto continua a dirmi, semmai, in fatto di sciocchezza evidente. Il caso di Kinder Cereali invece mi sembra più promettente. È uno spot pubblicitario e dunque come tale si configura di principio come un caso di comunicazione persuasoria. Va così. Due ragazzi e una ragazza scampagnano e scollinano come boy scout allo stato laicale. Uno dice: passiamo di lassù che non c'è mai passato nessuno o qualcosa del genere, e poi tracchete, quando sono lassù si trovano davanti una pista da motocross ad alta frequentazione, e qui che il meno prestante dei maschietti dice la frase: nella vita non si sa mai cosa c'è dietro, ed è qui che la fanciulla lo bolla al volo dicendo: ah, abbiamo un filosofo. Il che è un po' come dire che se un giorno per caso, ma proprio per caso e non per necessità, sesso si farà, lei lo farà con l'altro e non certo con lui, che finisce anche peggio, perché il riferimento a cosa c'è dietro serve per introdurre l'argomento della tavoletta di cioccolata sul cui retro sta il bugnato dei chicchi di riso soffiato. Attaccati ad uno, dice quello che prima o poi, più poi che prima, visto i tipi, avrà la ragazza, mentre al filosofo non rimane che la resa in un ah però, che lo ricategorizza immantinente come il più disarmato dei boccaloni. La filosofia come scienza del dietro darebbe finalmente una chance ai filosofi, anche a quelli che, come diceva Jean-François Revel allorché si poneva la domanda a che servono i filosofi, cominciano le loro opere con l'esposizione cupa e sprezzante di tesi sempliciste che si attribuiscono a immaginari predecessori, anche a quelli che, non trovando neppure un accordo con se stessi sul modo di definire la propria disciplina, hanno deciso di adottare, senza vergognarsene affatto, il famoso metodo Rorty, consistente nel dire che la filosofia è solo qualsiasi cosa facciamo noi professori di filosofia. Ma chi dovrebbe essere un esperto di cosa ci sta dietro a che sia, dovrebbe parimenti essere espertissimo nel badare che dietro a se stesso non ci sia alcunché, o che comunque alcunché non rimanga nella propria ombra. Dietro la filosofia invece, ai noi, ci sono macigni che la filosofia si è ben guardata dal portare alla luce, per esempio le contraddizioni della teoria della conoscenza e la loro piena funzionalità nei confronti dei sistemi di potere. Lo scambio di battute sul filo dell'umorismo fra i ragazzi del Kinder Cereali invece testimonia di un'idea popolare della filosofia che soltanto in apparenza è risultato di un processo critico. Viene asseverata quell'idea tanto cara a Mussolini, secondo la quale chi è tanto arguto nello sbrogliare la matassa dello spirito è anche del tutto incapace di cavarsela nella pratica della vita. Un'idea, voglio dire, tutta pragmatistica, che tende a premiare il risultato in qualsiasi modo lo si sia ottenuto. Un'idea che, tuttavia, al filosofo in definitiva, nulla toglie delle sue prerogative più care: la legittimità dei suoi strumenti per adire alle conoscenze superiori. Come dire che al filosofo magari non toccherà lo ius prime noctis, ma col tempo, con la pazienza, con tanta pazienza e con la parola e con tante parole, si rifarà. Quando ero ragazzo, più in città che in montagna, mi sono trovato spesso nelle condizioni dei ragazzi di Kinder Cereali. E anch'io dalla passeggiata ecologica avrei voluto tornare con all'attivo almeno una botterella di sesso a qualsiasi livello di sublimazione. Ma ogni volta mi veniva riproposto quel momento fatidico in cui la deliziosa e inarrivabile fanciulla di turno diceva a voce ben alta, in modo che tutti potessero sentirla, che lì, davanti a lei, nella mia modesta persona, c'era un filosofo. E sistematicamente questo fatidico momento capitava subito dopo che lei, non so se con un futuro di pizzaiola davanti, ma sicuramente disgraziata, subito dopo che lei mi aveva chiesto di che segno zodiacale fossi.